E allora, ultimi accorgimenti tecnici, stiamo per cominciare. E questa è la sesta puntata di Salute e Felicità, una rubrica tendenzialmente queer che va in onda tutte le domeniche dalle 21 alle 23 su transizione di fase 23 e 30 su transizionedifase.org. Invece che dall'igloo di Piazza dove siamo? Di Piazza Navona, Piazza Vittorio, trasmetteriamo da Tossettolandia. finanzia autistici, altrimenti lui muore! Mi piace avere spazio per il tuo blog. Finalmente anch'io il mio blog Anarco Vegan Post Porn Antifa Eco Nerd. Ciao di media. Ti piace avere le mailing list necessarie alla tua logorrea di movimento? Ho mandato il mio virulento commento in mailing list di movimento. Adesso mi creo 6 indirizzi alias falsi per darmi ragione. Ti piace avere le mail protetta? Sì, e mo vediamo come li beccate, cazzo di guardie. Che fate, andate a sequestrare i server in Norvegia? Nerd Punk Trash Core Benefit per autistici inventati. Venerdì 9 marzo, CSO a Forte Prenestina, via Federico del Pino, 100 celle. Ore 22:30. Workshop, nuova tecnologia, vecchia scuola, la solita musica, reti, protocolli di comunicazione musicale, strumenti free. Ore 23:12, 8 tracks, 2 CPUs and a DAC. Live set Dubtronico 100% do it yourself by Gaboral Complex. Ma che vuol dire? È Magone che suona. Ore 24:02 Dubversity, Dub, Grime, Darkstep Selecta. Sabato 10 marzo. Ore 17:59 apre il dibattito, repressione e difesa delle libertà e dei diritti in rete. Ore 22:55 concerto con Livore, Lad Rising, Cattivo Sangue, Congegno. A seguire selezioni con Take It Easy, Punk Set. Ma sta cosa c'è sta su Facebook? Insieme cosa vogliamo? Socializzare saperi senza dai poteri. Per iniziare vogliamo tutto. Il nostro obiettivo è liberare degli spazi sulla rete dove discutere e lavorare sui due piani. Da un lato il diritto bisogno alla libera comunicazione, alla privacy, all'anonimato e all'accesso alle risorse telematiche, dall'altro i progetti legati alla realtà sociale. La realizzazione di un server indipendente ci ha fatto un buon punto di partenza per l'immagine. Ore 21, le campane di Santa Maria Maggiore suonano come sempre le 21. Sigla. Caribou Sun. Ma lo sapevate che Joseph Ratzinger è uno dei più grandi, massimi esperti? È un esperto della gender queer theory di Judith Butler, and so on, and so on, and so on. Eh? Sapevatelo? Su Salute e Felicità. Educational Channel. Salute e Felicità. Ed eccoci qua, ci siamo, starnuti e felicità in questa puntata particolarmente attappata. Infatti è un lazzaretto, non è più un igloo. E quindi sono in mezzo a due fuochi, tra la bronchite 1 e la bronchite 2. Evviva. E quindi, che dire, rubo le cose che dice sempre Vizzicri. Che dire, che dire. Ma però questa cosa del che dire ormai mi imitano tutti. Che dire, infatti. Abbiamo anche una ospite con l'accento, no, uno con l'apostrofo, un ospite stasera che ci parlerà del mufla, vero? Che cos'è il mufla? Poi ce lo dirà, visto che sta qua, oramai l'abbiamo incastrata, mi pare abbastanza chiara. Comunque, che dire? Che dire? Che facciamo stasera? Abbiamo un sacco di argomenti da trattare, ma innanzitutto introduciamo il leitmotiv musicale di questa puntata, che è... Che è una puntata dedicata alle donne. Oh. Perché giovedì è l'8 marzo. E quindi? E quindi volevamo fare... Noi la mimosa non se la scambiamo. Come no? No, io sono allergica alla mimosa. Io attacco d'asma se mi regalata la mimosa. Mi vuoi tenere? Va bene. E no, quindi... Però parliamo, come dire, di che cosa significa, ha significato l'8 marzo, di che cosa succederà in questa città. Vediamo che cosa succede, forse. Grandi momenti di lotta. No, qualcosa succede. Non succede, ci sono un po' di cose. Non siamo in piena rivoluzione. Rivoluzione, neanche rivelazione, per fortuna. No. Però va bene. Però parleremo un po' dell'8 marzo, parleremo del 9 marzo, che c'è lo sciopero della fiamma. Parleremo del 10 marzo, che c'è l'assemblea LGBT cittadina e ne avremo da raccontarvene delle belle. E parleremo dell'11 marzo, così ce l'abbiamo tutti in calendario. Che è l'11 marzo? È domenica, che ne so, io lavoro. No, c'è la trasmissione, ma pure noi. Eppure noi ci potevamo svegliare comunque. No, parleremo di ieri, di come è andata a Roma, di che cosa è successo all'inizio di questa settimana nella valle. Parleremo di oggi. Più nominata della. Va bene. Yes. Parleremo di tante cose, però direi andiamo con. Un artista che a te piace particolarmente. Un artista che a me piace particolarmente. Uh-huh. È una canzone che a me piace tanto. Che coi. Come? Come che qui? No, non si dice che ovaie. No, questa è la puntata delle donne, quindi che ovaie. Che ovaie. No? Che ovaie. No, è bello, il brano è bello. Dai, introducila. Annie DiFranco. Col tuo inglese maccaronico, vai. Annie DiFranco. Annie DiFranco. No, perché al nome dell'artista ci sta, poi il nome della canzone. Come? Bot Ends. Oh, Bot Ends. Buon ascolto a tutte e a tutte. E a tutte, stasera a tutte. Solo donne. Ah, un'ultima cosa, chiunque sta su Skype, please entrate in chat così alleggerite la nostra banda, grazie. Grazie, viva, buon ascolto. I am walking wake up, I can see you. Okay. So the old woman behind the pink curtains and the closed door on the first floor, she's listening through the air shaft to see how long a swan song can last. In both hands, now use both hands. Oh, now don't close your eyes. I am writing graffiti on your body. I am drawing the story of how hard we try. How hard we try. And I am watching your chest rise and fall like the tides of my life and the rest of it all. And your bones have been my bed frame and your flesh has been my pillow. I've been waiting for sleep to offer up the deep with both hands. With both hands. But in each other's shadow we grew less and less tall, and eventually our theories couldn't explain it all. I'm recording our history now on the bedroom wall, and when we leave the landlord will come and paint over it all. And I'm walking out in the rain, and I am listening to low moan of the dial tone again, and I am getting nowhere with you, and I can't let it go, and I can't get through. Both hands, now use both hands. Oh, no, don't close your eyes. I am writing graffiti on your body. I am drawing the story of how hard we try. How hard we try. How hard we try. Thank you ever so. E grandi notizie arrivano dal web, e ancora una volta credo siano stati gli Anonymous, ma non lo sappiamo in questo momento. Sì, sono stati loro. Stamattina era ufficiale. E quindi anche adesso, se provate a scrivere governo.it sul vostro browser, vedrete che è difficile accedervi in questo momento. Quindi grazie Anonymous, abbiamo visti anche l'altro giorno sulla Notab, Regione Piemonte, eccetera, eccetera. Lei la dovreste conoscere. Non ha bisogno di presentazioni. Possibly can. Honey, you know I did. And each time I tell myself that I want to think I've had enough. But when I'm gonna show you, baby, that a woman can't be tough. I want you to come on, come on, come on, come on and take it. Take another little piece of my heart now, baby. Take another little bit of my heart now. 21:16, bentornati su Salute e Felicità. Innanzitutto scusate dei vari colpi di tosse e delle varie raucedini che intercorreranno nella serata di questa sera, ma appunto, come diceva prima la nostra Cri, siamo in una sorta un po' di lazzaretto e abbiamo anche un ospite che salutiamo, ce l'abbiamo qui, quindi non ci farà blum blum sul Mac ogni 5 minuti perché ci vuole correggere sui titoli delle canzoni e dirci che sono le vere star, e quindi poi insomma daremo anche un piccolo spazio. Però le azzecca tutte, dai. Le azzecca tutte. Infatti è facile però da casa, Assolutamente, alla prossima ci diamo un po' le coordinate, e quindi siete sul sito di Transizione di Fase. Per entrare in chat basta cliccare su chat, a installare l'applet di Java se non ce l'avete. Quando vi chiede di bloccare i componenti rispondere no, quando vi chiede di eseguire eseguite, e magicamente sarete sulla chat di Salute e Felicità, così che potrete interagire con il trittico un po' malandato di questa sera. Invece di vino andiamo a tisane. Sì, senza dubbio. Anche se il vino c'è. Io vado a vino, sono ecco. Sana. Ancora per poco. Oh. Dopo stasera capirai. E quindi, yes, abbiamo questo argomento particolare di questa giornata, di questa puntata sostanzialmente, che è l'8 marzo che si avvicina. Poi uno, no, un uomo, è il caso che parli poco dell'8 marzo, perché sennò, come dire, no? Che dire? Però la classica battuta è: perché non facciamo anche la festa degli uomini? Bah, dai, rispondi tu. Che tristezze. Che tristezze. Rispondo con una cosa molto vetero. Uh-huh. Non c'è niente da festeggiare. Soprattutto in questo periodo non c'è niente da festeggiare. E visto che è di oggi l'ennesima notizia dell'ennesima aggressione, omicidio, di violenza maschile sulle donne, culminata con omicidio a Brescia, di un tipo che ha sbroccato, ha deciso di, se non ho capito male, dopo 2 anni di separazione o divorzio non meglio identificata, di salire a casa, sparare a lei e a lui, e poi andare a sparare anche a 2 dei 3 figli in una, insomma, ottima idea, ancora una volta. Ancora una volta la domanda nasce spontanea, era un uomo? O che passaporto aveva, visto che tutti ogni volta che viene uccisa una donna la prima notizia che fanno era: ma rumeno uccide, no? Non sì. È... ma scusa, ma da quale parte del mondo veniva? Ecco, chiaramente rumeno uccide no, veramente tanti italiani uccidono le proprie compagne. Gli uomini uccidono le donne. Chiaramente la violenza. In alcuni casi, purtroppo, ancora troppi. Ricordiamo che l'80% delle violenze avviene in famiglia. Yes, quindi, e anche che nella casa del mulino si nasconde l'assassino. E queste slogan le abbiamo dette tutte quante. E, mentre 8 cosa? 28. 28, per 28 donne uccise da gennaio. Vedi, è preparata la nostra. È preparata. E quindi la nostra ospite. Che se vuoi puoi anche avvicinarti invece di stare lì col tuo iPhonesis. No, è un Android a smanettare. Vabbè, la facciamo divertire un altro pochettino con giocare, la nostra. Dai. E questo allora è un altro brano di un gruppo che piace molto, sempre alla nostra qui presente Cri. Ho capito. Che si chiamano le Pipettes. È divertentissimo. Vabbè, come si chiama sta canzone? Pool Shapes. Sei stata brava, eh? Hai detto giusto a sto giro. E smettila di detto sì, mannaggia a te. Buon ascolto a tutte e a tutti. E a tutte. 2 volte. Shapes, 21 e 23 erano le pipette, quelle che ci piacciono a noi tanto ballare quando si fanno qualche festicciola di qua e di là. E salute e felicità, sesta puntata, e ci serve un po' di... Oh, ci ha azzeccato, strano. Perché l'ha detto prima, e perché mi sono andata a rivedere i podcast sul blog di salute e felicità. saluteefelicita.noblogs.org, sul quale blog sul quale potete riascoltare tutti i podcast delle puntate precedenti. Vi segnaliamo soprattutto l'ultima puntata, quella scorsa che c'è stata su salute mentale OPG, un discorso che proseguiremo anche in parte oggi se ci riusciamo, ovvero quello che riguarda salute mentale donne, soprattutto ospedali psichiatrici giudiziari e la questione delle donne. Ma la settimana che ci aspetta, appunto, vedrà varie mobilitazioni, fra le quali una giornata che tutti sanno che c'è, ma che in pochi sanno veramente il significato, e che soprattutto in tanti e in tante purtroppo festeggiano in maniera, come si può dire, in maniera un po' così, un po' è la giornata della donna, oh che bello, fammi gli auguri, regalami la mimosa e oggi sono più felice. Andiamo a vedere gli spogliarellisti. Io le spogliarelliste no. No. No. Stai sempre in una società eteronormata. Ai. Bisogna fare pure la giornata delle lesbiche a un certo punto, non lo so. Sì. Poi facciamo la giornata delle butch, poi facciamo la giornata Ha iniziato la lista. Ha iniziato la lista. E finisce l'anno così e passiamo un anno di festeggiamenti, no? Poi la giornata della pizza. La giornata della pizza, ma penso sì. Che c'è. La pizza, cioè tutte le mamme escono e si vanno a mangiare la pizza con le amiche. Ah, l'8 marzo, certo. Quando il marito dice, moglie, puoi andare a cena fuori questa sera. No, il marito non dice, moglie, puoi andare. No. Non esagerare adesso. No, è un po' come dire una giornata che, per quanto possa avere un senso o un non senso, molte donne che vivono una condizione di... matrimonio o che sono casalinghe a casa ne approfittano per prendersi uno spazio, perché in un certo senso è un po' giustificato. Non moglie, vate a mangiare la pizza, cioè. Non mi arrabbio se questa sera vai a mangiare la pizza, moglie. Niente, è una visione un po' così. È una visione un po' così. E allora che vogliamo dire su questa festa della donna, che non è una ricorrenza da festeggiare con la mimosa, ma è un giorno in più per ricordarsi della condizione d'oppressione che vivono tutte le donne e, diciamo, soprattutto gli ultimi 30 anni di storia, anzi 40 anni di storia, è quello che in qualche modo anche nel nostro paese si è segnato a botte di riforma di legge o a attacchi di violenza o non libertà di fare delle cose e delle scelte che si sono, diciamo, prorogate e diffuse, hanno invaso i nostri spazi e i nostri corpi durante questi ultimi tempi. La prima manifestazione dell'8 marzo che ci ricordiamo a Roma è quella del 1972, che fu una manifestazione che ci fu appunto a Campo dei Fiori. E diciamo c'erano tantissime donne con dei cartelli, che vorrei leggere qualche titolo di questo cartello perché mi pare proprio che sia un'altra epoca, un'altra storia, un altro mondo proprio, e perché appunto c'erano questi cartelli con scritte inconsuete e scandalose, addirittura c'era scritto, pensate un po', legalizzazione dell'aborto. Un cartello direi abbastanza scandaloso, legalizzazione dell'aborto, perché ancora si stava con i forconi. Poi c'era un altro fantastico scritto, liberazione omosessuale. Pensa, cioè sembra proprio 40 anni fa, ma ancora... C'avevano bisogno di scrivere queste cose, dai. Grazie a noi, dopo 40 anni adesso stiamo avanti, non serve più dire aborto legalizzato, perché l'aborto è legalizzato. No, però dobbiamo difendere la 194, perché ci hanno provato in tutti i modi. Ma non è così legale l'aborto oggi, no, in Italia? Va bene, dai, Cri, tutto bene in Italia adesso, dai. Perché ho sentito qualcosa tipo del movimento della pita, che diceva queste donne, queste donnacce che rimangono incinta, stanno uccidendo un bimbo. Come funziona? Bimbo. Un bimbo, una bimba? Stanno uccidendo un bimbi, quello là. Quello che ti fa la crema da sola. Col mini miner. No, e vabbè, aspettate un secondo, perché volevo finire questa serie di cartelli molto vecchi, retro, ecco. Cose già che ci abbiamo. Cose passate, legalizzazione aborto, liberazione omosessuale, matrimonio uguale prostituzione legalizzata. Pensate un po'. E veniva fatto circolare un volantino che chiedeva che non fossero lo Stato e la Chiesa, ma la donna, ad avere il diritto di amministrare l'intero processo della maternità. Sì. Queste scritte sembrarono intollerabili, poiché la polizia caricò, manganellò e disperse le manifestanti. Attenzione, era l'8 marzo del 1972, sono passati 40 anni e oggi ci ricordiamo solo di prendere la mimosa e di andare a mangiare la pizza fuori. Io ne ho timore, ne ho veramente timore e più che altro rabbrividiamo un po' di fronte a un certo tipo di rivendicazioni che arrivati a oggi saremmo... O sarebbero loro state dovute in grado, non so i verbi come ho messi, però come dire, di fare qualche coniugarne quattro alla volta. Vabbè, ma è domenica, abbiamo detto la domenica è legalizzato il parlare a vanvera. Abbiamo fatto molti passi avanti in questi 40 anni. Alla grande proprio. Sì, sì. Tipo vai, primo passo avanti. Vabbè, l'aborto. L'aborto. 1978 in realtà. L'aborto, non noi, loro. Il divorzio? Stesso anno. Chiusura dei manicomi, stesso anno. Siamo nate proprio nell'epoca sbagliata comunque. Perché almeno là era una vittoria, adesso ormai c'è... È una difesa. È una difesa. Dell'articolo? 18! Oh mamma mia! No. Torna all'articolo 18. Oddio, make me over. Dicevamo, allora, l'aborto è stato legalizzato, quindi sì, su quello un passo avanti, dai, l'abbiamo fatto. Ci hanno messo il divorzio e quindi ci possiamo separare, no? Sì, non siamo più considerate delle donnacce che si separano questi poveri mariti abbandonati, giusto? Giusto. Poi dipende come va il divorzio. Quella è un'altra cosa. Se ci arrivi al divorzio. Abbiamo vinto un'altra cosa. In alcuni casi. Tipo, abbiamo la parità salariale, beh? Sì. Ultimi dati Istat dicono proprio questa che cosa. Che dicono gli ultimi dati Istat? Che a parità di mansione, indovina chi piglia di meno, è facile. Cioè, è proprio semplice. Brunetta piglia meno di tutti. Perché è più basso. Oh, ancora, che ci avete contro i nani? Beh, ho capito, però, cioè, se vai a comprare un vestito fatto su misura, cioè, c'è anche la stoffa. Certo. Io penso che quando compro i pantaloni con la piega, cioè quando taglio i pantaloni che usualmente compro, posso fare un paio di shorts. Di shorts? Due in uno. O uno in due. Non lo so, fate hobbies. Quindi abbiamo... Sono 40 anni... Era la parità salariale. La parità salariale. Poi, un altro diritto? I licenziamenti. Licenziamenti senza giusta causa. E non c'entra l'articolo 18. Non c'entra l'articolo 18. Le dimissioni in bianco. Oh, quelle mi sa che non le abbiamo vinte. Le aveva... No. Le avevamo vinte, sono riprese, ci hanno ridate, cioè... E adesso proprio pare con la nuova manovra... Monti, non riesco. Con la... Diceva che il precedente ministro ha abolito una legge che sostanzialmente tutelava le donne all'ingresso sul posto di lavoro, vietando al datore di lavoro una serie di controlli ben specifici che facesse firmare il cosiddetto foglio in bianco, per questo si chiamano dimissioni in bianco. Cioè che mi assumono e mi dicono... Signorina, prima di essere... Ecco, insieme al contratto ti danno un foglietto bianco. Prima del contratto, accanto al contratto. Prima del contratto. Prima del contratto ti danno un foglietto bianco in cui tu apponi la tua firma. Per cui se un giorno, ne so, vorrei avere un figlio, libera sempre se scegli di avere un figlio, il datore di lavoro ti presenta questo grande foglio in cui c'è scritto probabilmente che, visto la tua condizione di maternità, rinunci al tuo posto di lavoro. Quel foglio forse l'hai firmato 5 anni prima, che ne sai? E quindi queste sono le dimissioni in bianco. Vabbè. 40 anni di lotte di femministe e lesbiche che sono riuscite a conquistare molto, ma mai abbastanza e mai in maniera, come dire, concreta e stabile a quanto pare. Non abbassare mai la guardia, forse. Non abbassare mai la guardia. E allora io direi andiamo avanti con la musica, sono le 21:33. Andiamo avanti anche racimolando un po' qua e là informazioni su questo 8 marzo e cosa succederà in Italia. Iniziative e vari appuntamenti E poi torniamo un po' su Roma e vediamo qui a Roma poi che succede, perché questa settimana in verità non ci saranno iniziative particolari di piazza riferite alle donne. O... ci saranno piccoli pezzi di resistenza. E allora noi siamo qui per sostenere e informare su questi piccoli pezzi di resistenze. Resistenze. 21:34, saluto e felicità. E arriva lei. Oggi. I'm all I wanna be. Look at my eccomi di nuovo in voce. Abbiamo appunto ascoltato le Hall. Torniamo sull'8 marzo, torniamo sulle iniziative, su un po' di piccole resistenze che ci sono in Italia e in particolare nella città Roma, visto che della città di Roma, visto che siamo dal Lazzaretto di Piazza Vittorio a Roma, quindi segnaliamo sicuramente, ne abbiamo parlato anche le scorse puntate, della situazione a Via dei Volsci 22, la storica sede delle femministe e lesbiche occupata nel 1970. La mattina, questa sede è un po' di tempo che è sotto sgombero, e pensate un po', indovinate qual è la mattina prevista per l'ennesimo tentativo di sgombero per la sede? Non è difficile, dai. No, vabbè, hanno fatto il 24 dicembre. Non ce la fa più. Vabbè, hanno fatto il 24 dicembre. Il 31 dicembre, il 31 dicembre. Il 25 aprile. E ora? È l'8 marzo. L'8 marzo, quindi la mattina dell'8 marzo ci sarà una colazione desistente a Via dei Volsci 22 davanti alla sede, dalle 8 del mattino più o meno. Invitiamo tutte le compagne ad andare, se per chi può andare ovviamente la mattina, altrimenti se la mattina lavorate, purtroppo come faccio io, o per fortuna come in questi tempi bisogna dire, potete andare alle ore 19 sempre presso la Via dei Volsci 22, perché c'è la coordinamenta femminista e lesbica dal titolo Pensare, creare, programmare, attuare autodifesa e auto-organizzazione. L'iniziativa è promossa dalla Coordinamenta Femminista e Lesbica di Collettive e Singole di Roma, per cui ci sarà anche un po' di musica, ci sarà un aperitivo, un buon modo per stare con le compagne, per capire anche che cosa sta succedendo a Via dei Volsci 22. Tra l'altro la scorsa puntata vi avevamo detto che ci sarebbe stata ieri una street art per denunciare la situazione di sessismo pesante, i continui attacchi, tra l'altro, sessisti e lesbofobici contro la sede del 22. Purtroppo questa street art è stata rimandata, vi faremo avere a breve nuove informazioni su questa cosa, però intanto l'8 marzo alle ore 19 vi invitiamo tutte, in questo caso, a Via dei Volsci 22. Un altro po' di musica, è ora una signora della musica, Madonna con Hung Up. So slowly, salute the spellage down. So slowly, so fast. So slowly. That's how I want to feel from now on. Visto che stiamo ancora parlando di 8 marzo e sfruttiamo l'ospite della serata, perché tra le piccole resistenze, anche se questa non è piccola, è una lunga resistenza anche fisica, a Roma c'è la 24 ore dell'MFLA. Che cos'è l'MFLA? Che cos'è l'MFLA? È il martedì autogestito da femministe e lesbiche in onda sugli 87.9 di Radio Onda Rossa in modulazione di frequenza, altrimenti in streaming su ondarossa.info. No, la concorrenza non la volevo. Scusa, Ho capito. Andiamo in streaming. Ma Bodina si è data. Bodina si è data, ma ci sta ascoltando. Esatto, per quello glielo stiamo dicendo. E quindi, insomma... Sì, insomma, quindi il martedì quest'anno si è lanciato in questa follia. In realtà, fortunatamente per noi, non siamo da sole. E abbiamo organizzato questa maratona radiofonica di 24 ore che scatta dalla mezzanotte dell'8 marzo fino alle 24 dell'8 marzo, quindi tutte appunto le 24 ore. Apriremo con un collegamento con Madrid, che fanno anche loro un'altra maratona radiofonica, la Red Nosotras nel mondo, che sono una rete di radio femministe, diciamo, dell'America Latina e diciamo Spagna e cose del genere. Poi avremo un palinsesto notturno dall'1 alle 6, la notte ci piace, ci sarà un po' di musica ovviamente e conduzione fino all'alba. Al suo interno ci collegheremo con lesbiche e femministe di altri fusi orari, quindi quelle che saranno sveglie veramente a quell'ora. Dalle 6 alle 8 ci sarà il breakfast, lo spazio del buongiorno. Poi, come di consueto, su Onda Rossa faremo la rassegna stampa, anche se faremo una rassegna stampa tutta di genere. Probabilmente verrà anche Monica Pepe di zerovioletzadonne.org a darci una mano. E poi comincerà in realtà il clou della grossa giornata. Avremo un'agenda, poi racconteremo appunto la storia dell'8 marzo tra mito e rito, presenteremo tutte le iniziative, faremo un collegamento col presidio appunto dello sgombro del 22 di cui parlavate sopra. Avremo un redazionale dall'Aquila alla Valsusa, lo Stato arresta e stupra. Cose sempre molto leggere. Una mattinata tranquilla proprio. Sì, però ci è sembrato... Tra l'altro questo striscione ha fatto una fine gloriosa che non tutti sanno, ma stava su una delle barricate che quindi ha preso fuoco. Invece di finire dentro qualche baule, siamo molto orgogliosi che sia andato bruciato nella barricata, almeno ha fatto una fine gloriosa. Poi avremo un paio di trasmissioni più leggere, spettacoli teatrali durante, diciamo, l'ora di pranzo, ci sarà l'ora del coffee break, cercheremo di essere un po' più leggere. Parleremo da Londra di industria del sesso e olimpiadi, faremo una trasmissione di riflessione sul linguaggio, lo faranno le connettive che sono un gruppo lesbico, parleremo delle femministe e delle lesbiche in rete, questo alle 15, ci sarà una selezione musicale, voglio cantare a cura delle ribellule. No, questa non la sappiamo neanche noi perché gli abbiamo dato. Che fanno le ribellule? Voglio cantare, così fior di mimosa non voglio fare il mestiere della sposa. Ne ho timore. Ne abbiamo tutte timore, ma gli abbiamo dato carta bianca perché... A che ora questo? Dalle 16 alle 16.30. Di giovedì 8 marzo. Di giovedì 8 marzo. Mannaggia, ci sto. Non vi preoccupate, troverete. Ma lo fate il podcast? Sì, trovate tutti i podcast su mfla.noblogs.org, che poi a breve sarà anche quello dove troverete tutto il palinsesto. Presenteremo il libro Sessismo Democratico, faremo un lungo pomeriggio di agenda in cui parleremo con tutti, diciamo, le mobilitazioni che stanno in giro per l'Italia, cercheremo di dare visibilità ai collettivi femministi e lesbici che si vogliono presentare, raccontare il loro progetto, percorso, quello che fanno, dire anche solo esistiamo, insomma, queste cose qui. Poi dalle 20 alle 21.30 avremo una trasmissione che è Rompiamo il silenzio, è una trasmissione sul contrasto alla violenza contro le donne con Be Free e il Centro Donna Lisa. Alle 21.30 fino alle 22.30, se siamo ancora vive, ma noi speriamo nell'aiuto di tante e tante compagne che verranno a trovarci durante la giornata, è quanto mai una calamità ed è una trasmissione costruita a più voci sulla storia di vita e di militanza lesbica del coming out. E poi dalle 22.30 alle 23.30, mentre sarà per finire quella lunghissima giornata, ci collegheremo con i due cortei notturni di lesbiche e femministe che saranno a Parigi e a Marsiglia, con le compagne sempre della Red Nosotras. Insomma, poi chiuderemo questa maratona alle 24, sfido a ascoltarci per sapere poi in che condizioni stavamo. Perché forse ne usciremo vivi, ma forse tutto no. Questo quindi dalle 24 di mercoledì 7 marzo alle 24 di giovedì 8 marzo. E dove si può ascoltare tutta questa... Queste 24 ore. 24 ore di femminismo e lesbismo. Queste 24... Questi 24 ore non stop si possono ascoltare sul sito della radio in streaming per chi non sta a Roma, quindi ondarossa.info. Poi in realtà ne abbiamo chiesto anche a un sacco di radio di rimandarci pezzi di palinsesto, segnale, so che pure... Sì, stiamo aspettando che ce lo chiedete con carta ufficiale bollata. Bollata, quindi non sarà mai fatto perché non abbiamo né la carta né i bolli, soprattutto i bolli. Va bene, accettiamo l'invito. Grazie. Potete scegliere la parte di palinsesto che più vi piace, poi mano a mano finirà tutto sul blog dell'MFLA e comunque sì, chi ha una radiolina di quelle vecchio stampo o la radio nel cellulare sugli 87.9 di Radio Onda Rossa. Eccola, Gigi già rosica. E allora

Now you've listened to my story. Here's the point that I have made. Chicks were born to give you fever, be it Fahrenheit or centigrade, to give you fever. When you kiss them fever, if you live, you learn. Fever till you sizzle. Oh, what a lovely way to burn. Oh, what a lovely way to burn. What a lovely way to burn. What a lovely way to burn. Ventuno e 59. Saluto e felicità, arriva con il suo appuntamento serale. E forse gliela facciamo a far parlare l'unico conduttore uomo della puntata. Si è perso il bronco. Ah, cercasi bronco? È fidanzata, diceva qualcuno. Il bronco? Dipende. E è sempre lei, Tina Turner, con il suo The Best. Saluto e felicità con il suo The Best of the Strong, Cool, Strange, Weird Thing of the Week. Passo io, mi fermo io che passi su. Una sorta di 14 chilometri. Che passo io, mi fermo io che passi tu. Una sorta di... Per 14 chilometri. Sì. Fermati tu che passo io, mi fermo io che passi tu. Una sorta di... Per 14 chilometri. Sì. Fermati tu che passo io, mi fermo io che passi tu. Una sorta di... Per 14 chilometri. Ed eccoci qua, signore e signori, è arrivato il momento di innanzitutto salutare tutte coloro le quali sono venute in chat oggi. E in più è arrivato davvero il momento di ascoltare Mario Virano e la sua geniale idea di esporre in maniera convincente, senza alcun dubbio, perché la TAV bisogna farla. Un buon ascolto a tutte e a tutti. Allora, è del tutto evidente, no, che la linea attuale è sottoutilizzata, sì, e che il flusso dei traffici è drasticamente calato negli ultimi anni. Questo, beh, è vero, allora, come è obiezione. Un fatto, è un fatto. È un fatto. Sì. Va bene. La domanda è perché? Piccola domanda è perché? Allora... No, scusate, la possiamo rimandare un attimo dall'inizio? A parte che il Catania sta vincendo 2-0, ma la rimandiamo, perché già uno si dovrebbe fermare qua. Non uno, ma due, tre locomotori. Allora, è del tutto evidente, no, che la linea attuale è sottoutilizzata. Sì. E fin qui il flusso dei traffici è drasticamente calato negli ultimi anni. Questo, beh, è vero, allora, questo come è un fatto, è un fatto. È un fatto. Lo dice anche Annunziata, insomma. La domanda è perché? La domanda è perché? Allora, dice. La linea è una linea di montagna, lo ricordavo prima, sì, il che significa che per arrivare a 1250 metri è a un certo lento, punto, sì, bisogna metterci non uno ma due, tre locomotori. Ah, poi si arriva all'imbocco del tunnel di Cavour del 1871, sì, e si scopre che, devo semplificare molto, certo, no? Che gli standard di trasporto normali, efficienti, competitivi, eccetera, lì non ci passano. Siamo arrivati. Quindi il problema è che gli standard dei container di lì non ci passano. Aspetta, perché adesso ce lo argomenta meglio. Vai, Mariano Virano. Questo è responsabile per il governo della TAV. Della TAV proprio. Ci metto un container della sagoma P45, che è una, sì, P45, sì, sul vagone, sul vagone, no? Sì. Siccome ha gli spigoli, il container e la galleria è una galleria ovoidale, non ci passa. È sicuro di questo, perché dice che invece, certo, avevo letto che ci passava. Certo. No, Annunziata, non ci passa. Siccome non ci passa, sì, Annunziata, non ci passavano solo le sagome PC30, solo quelle. Negli anni scorsi è stato deciso di... non potendo allargare la gara. Di limare, no? Limiamo i container, no, limiamo gli spigoli, secondo me dice questo, limiamo gli spigoli, no, giustamente uno dice non ci passano, limiamo gli spigoli, certo, no. Che fai, no? Infatti ora, aspetta. Come si fa con le unghie? Cioè, lo dice, no? Aspetta, lo dice. Sì. Ci passavano solo le sagome PC30, sì. Negli anni scorsi è stato deciso. Sì. Non potendo allargare la galleria, abbassare il pavimento. Ecco. Per abbassare il pavimento, già, o si chiude tutta la galleria, che significa, sì, che il rapporto tra Italia e Francia, certo, per 3 anni viene completamente azzerato. Cioè, e quindi, no? Che facciamo? Oppure si lavora prima su un binario e poi sull'altro. Ecco. Il che significa, che per 7 anni, la Macarena, se è andato avanti a senso unico alternato, ecco, come sulla Salerno-Reggio Calabria, fermati tu che passo io, mi fermo io che passi tu, una sorta di è un nuovo balletto fermati tu, è il nuovo balletto dell'anno. Per 7 anni, sì, 7 anni se è andato avanti a senso unico alternato, fermati tu che passo io, mi fermo io che passi tu, una sorta di per 14 chilometri e fermati tu che passo io, che passo io, che passi tu e fermati tu, io, la Salerno-Reggio Calabria 7 ore 100 metri e passi io che aspetti tu e l'acqua chi la porta. Eccolo qua, eccolo, senti, eccolo qua, guarda. Te la risenti alla nuova Macarena dell'anno. Fermati tu che passo io, mi fermo io che passi tu. Una sorta per 14 chilometri. Per 14, sì, chilometri, attenzione. Fermati, solo passo 14. Io, mi fermo io che passi tu. Una sorta per di... 14 chilometri. Per 14. Ma fermati, che è amico di quella là che diceva... Cioè, lui vuole praticamente disangolare questa formazione ovulare, ovoidale di un pentagono cubico che entra in una galleria, certo, esagonale, certo, no? Certo, e, diciamo... E folcabeste che andava, fammelo cannone ottagonale che si risolve tutto. Ecco, ma mi pare amico di quella che diceva che invece di smussare gli angoli di una galleria ovoidale per farci passare un pentagono cuboidale in cinque dimensioni, ci voleva far passare i neutrini. Se tu spari i neutrini dal CERN, cioè, ma si, cioè... come si chiama questo? Allora, questo qua si chiama Mario. Noi a Mario lo menamo. E noi a Mario lo menamo. Mario Virano è il responsabile del governo per la TAV e ha detto davanti a Lucia Annunziata e a tutta quanta l'Italia, ha detto che bisogna fare la TAV perché noi non abbiamo i container P45 ma abbiamo i PC30 e questi qua hanno gli angoli e non sono smussati e quindi non ci passano. Ma nei P45 ci vanno i neutrini? Cioè, chiaramente, pacchi interi di neutrini. Allora bene, facciamo la TAV. E tra l'altro ha detto anche che hanno già provveduto in parte a provare a risolvere questo problema e non è che hanno comprato i nuovi container o limato a uno i container. Hanno abbassato il pavimento, signore e signori. Cioè, ma come ti viene? Ma chi è sta? Ancora si TAV. Cioè, il problema della TAV è che i container che abbiamo non ci passano. E compriamoli più piccoli. 22 miliardi. Allora, questa persona... Oh, no, però finalmente c'è una proposta seria sulla TAV. Oh, ecco. Allora. Noi l'aspettavamo. Servirebbe un ponte da Messina a Lione. Oh, tiè, pensa che bello. Jiu-Jitsu ministro dei trasporti. Oh, cioè, e quindi questo passi di tu che passo io, passi di tu, tu, eccolo qua. Passo io, mi fermo io che passi tu. Una sorta di... Per 14 chilometri. Bei cazzi. Tutti i giorni, tutto l'anno, da 40 anni sulla Salerno-Reggio Calabria, famo così... E ne frega a casa nessuno, eh? 70 che? 70 chilometri il pezzo del Lago Negro. Ma aggiungi tu, aggiungi tutti. Poi Lago Negro, la Salerno-Reggio Calabria passa per le montagne molto più della Val di Susa. Passa, cioè, per arrivare a Catanzaro e Cosenza, passi in mezzo alle montagne davvero. Arrivi in Basilicata, eh? E noi andiamo invece di aggiustare le infrastrutture che già sono distrutte in questo paese, andiamo a fare due cose geniali: la TAV e il ponte. Così effettivamente il corridoio Palermo-Lione, che poi la domanda era ma che cazzo ci devono andare a fare a Lione, però anche se per caso dovessi andarci a Lione, puoi comunque prendere un treno che ti ci porta in 4 ore e mezza. Ma la battuta che sentivo ieri in... O un aereo, chiaramente. In condizioni sociali, non ricordo quali, era un po' sulla polemica che... Sulla polemica, no... sugli aspetti critici in cui versano i pronto soccorsi soprattutto nelle ultime settimane a Roma, dato che c'è stata un'irruzione al Policlinico Umberto I e trovando pazienti insomma in condizioni veramente pietose e facendo un po' l'appello di chi stava lavorando al pronto soccorso in quel momento, si è visto che le risorse sono attualmente bassissime, tipo c'è una persona che porta le barelle, un medico chirurgo, un infermiere all'accettazione e finisce il reparto di pronto soccorso di uno dei più grandi ospedali di Roma, penso, non so a che livello sia, ma comunque diciamo il Policlinico è un ospedale molto importante. Probabilmente a Fratie sono finiti i soldi, pensavo ieri, no? Perché legami fra Università della Sapienza e il Policlinico sono abbastanza viscidi e manifesti. Allora qualcuno diceva, certo, tu vai al Policlinico, ci vai, diciamo, tipo in codice rosso, aspetti 3 ore e mezza e non sai se riceverai le cure. Probabilmente andrà male questa cosa. Nello stesso tempo, delle 3 ore e mezza, tu però potresti andare da Torino a Lione. Allora forse la NOTAV la vogliono fare per recuperare i servizi sanitari lì dove scadenti... Della serie, se ti senti male, puoi sempre andare all'ospedale di Lione. Esatto, c'è sicuramente meno gente che a Roma. Che arrivi prima, certo. Quindi la NOTAV è una cosa buona. La TAV è una cosa buona. La TAV è una cosa buona. E quello era un lapis. Comunque, un lapis. Concludiamo questo simpatico momento. Ah, no, te volevi dire un'altra cosa, vero? Avevo capito, no? Vabbè, io la volevo dire. Ancora te. Ancora tu. Ma non dovevamo vederci. Vi prego, più. Venite alla prossima serata di autofinanziamento di TDF, così compriamo un microfono per la terza conduttrice. Grazie. Sì, io poi me lo tengo uno mio privato, così ti bacilli sopra. No, alle 23.59 di oggi finisce il nostro brainstorming per acquistare il nuovo microfono e il mixer, non vi preoccupate. Wow. Comunque dicevamo che, non, che bisogna sostenere e continuare a informarci sulla lotta della Notav, e di Notav ce ne stanno tante. A voglia. In tutta Italia, perché sono battaglie che ci mettono in rete per la difesa dei territori e per la difesa dei beni comuni. Siamo a Roma e io ne butto una là, a Centocelle, a Via dei Castani. Stanno facendo l'ennesimo parcheggio sottointerrato, il che, come dire, potrebbe essere una cosa buona, poiché le strade potrebbero avere meno macchine, eccetera, eccetera, eccetera, eccetera. Peccato per che per fare questo parcheggio stanno deforestando quei pochi alberi che sono rimasti a Centocelle. Insomma, siamo vicino al Forte Prenestino, uno dei pochi polmoncini che ci sono a Roma, e abbattiamo 10 alberi per fare i parcheggi sotterranei. Dovete cercare di isolare i violenti, come diceva, e la risposta chiaramente è... Sì, sì, ci proviamo, abbiamo anche fatto delle barricate, solo che loro hanno lacrimogeni, manganelli, idranti. Non è una cosa facile. E va bene, e quindi mi pare abbastanza chiaro che c'era... Ah, dici, di. Scusate così l'intermezzo. A proposito di questa cosa della linea della metropolitana, ricordiamo che una settimana fa è morto un ragazzo di 26 anni perché è sprofondato in, cioè un, pozzo di 30 metri mentre stava lavorando per la costruzione della linea C della metropolitana di Roma, con un contratto che sappiamo benissimo cosa può essere un contratto in questo periodo, senza misure evidentemente di sicurezza sul lavoro. Infatti ieri mattina Roma è stata una città attraversata da alcuni cortei, tra cui quello dei lavoratori edili ieri mattina, che richiedevano sicurezza sul lavoro. E allora, oltre a, come dire, a comprendere e capire le ragioni di una popolazione che è in lotta da circa 20 anni per non avere un treno che in tre ore e mezza ti porti da Torino a Lione, magari questi soldi potrebbero essere investiti sulla sicurezza, per quanto riguarda la sicurezza sul lavoro. E va bene, ci pare abbastanza chiaro. Adesso, per quanto questa persona a cui daremo lo stream, diciamo, cioè, come dire, che lasceremo parlare per circa 10 minuti in questa nostra simpatica trasmissione, ci sta simpatica, ma non troppo. In ogni caso è, come dire, la risposta delle risposte a questo signore che ha appena parlato di... che non so se ve lo ricordate, aveva detto... Passo io, mi fermo io che passi tu. Una sorta di... Per 14 chilometri. E allora, poi ve la taglieremo chiaramente, cioè abbreveremo chiaramente la questione, però un pezzettino ve lo facciamo sentire perché davvero... in questo caso, diciamo, ci piace particolarmente quello che va a dire. Un buon ascolto a tutte e a tutte. Allora, l'abbiamo sentito, il TAV Torino-Lione nasce 21 anni fa, quando era appena caduto il muro di Berlino, al governo c'erano Andreotti e Cirino Pomicino, e alle ferrovie Lorenzo Necci, poi guarda caso Tangentopoli li ha spazzati via tutti. Un'altra era geologica, quando i politici erano in preda a una supersonica invidia del pene e come modello di sviluppo inseguivano ancora la muraglia cinese e la piramide di Cheope. Poi sappiamo che cosa ci hanno lasciato di grosso: il debito pubblico in eredità. Il primo studio di fattibilità commissionato dalla Regione Piemonte 21 anni fa stimava che i passeggeri fra Italia e Francia sarebbero aumentati da 1,5 milioni a 7,7 milioni in 10 anni. Invece adesso sono 700,000, un decimo del previsto. Infatti il vecchio treno diretto Torino-Lione è stato soppresso da un pezzo. Allora si è detto: siccome la nuova linea non serve per i passeggeri che non ci sono più, servirà per le merci. E il progetto ha cambiato nome da alta velocità a alta capacità. Adesso, a parte l'idea folle di fare una nuova ferrovia per portare le rape, le fave, soprattutto le fave, mezz'ora prima da Torino a Lione, basta dare un'occhiata ai dati del traffico merci fra l'Italia e la Francia, che è salito fino al 2000 e da allora è colato a picco. L'Ufficio federale dei trasporti svizzero calcola che nel 2000 viaggiavano 8 milioni di tonnellate di merci, Oggi ne viaggiano 2,5, anche perché ormai il grosso passa dal Gottardo e dal Brennero. Basta appostarsi sulla ferrovia Torino-Modan e osservare, l'80-90% dei treni merci passa completamente deserto. Anche perché abbiamo speso un sacco di soldi per potenziarla, la Torino-Modan, che ora potrebbe trasportare fino a 20 milioni di tonnellate, invece ne trasporta 2 o 3 al massimo. Cioè nessuno usa la linea esistente e noi, furbi, cosa facciamo? Ne facciamo una seconda. Con un cantiere che durerà 15 anni, scaverà 57 chilometri in una montagna piena di amianto e materiale radioattivo, perché noi siamo molto furbi, come se non fosse bastata l'Eternit a insegnarci qualcosa. E dove lo mettiamo i milioni di tonnellate di detriti, per giunta in parte tossici, che usciranno da quel buco, e quanti tir ci vorranno per portarli via, con quanta CO2 e quanto inquinamento, e che fine farà il turismo nel frattempo, e le infiltrazioni dell'Andrangheta in quella regione? Qualcuno ci ha pensato, e chi curerà le 10.000 persone che si prevede che rischino di ammalarsi per le polveri e lo smog da cantiere, visto che è previsto addirittura un più 10% di malattie cardiache e respiratorie? Per questo non è vero che il TAV è inutile. Il TAV Torino-Lione è dannoso per l'ambiente e le falde acquifere. Chiediamo ai toscani cosa è successo con il TAV tra Firenze e Bologna, per la vita e per la salute degli abitanti della Valsusa, ma soprattutto per le casse dello Stato è dannoso. Dicono che l'Europa dovrebbe pagare il 30-40% dell'opera, ma non è vero niente, non c'è niente di sicuro. Finora ha stanziato solo 600 milioni per il tunnel esplorativo, il resto è tutto da vedersi. E gli accordi con la Francia prevedono che l'Italia pagherà il 57% di un'opera che passa solo per il 30% sul nostro territorio. Siamo sempre più furbi. Alla fine il TAV dovrebbe costare, nell'ipotesi maxi, 18-20 miliardi, cioè quanto basterebbe per cablare tutta l'Italia a 100 megabyte, o nella versione low cost 8 miliardi, tanti quanti la Gelmini ne ha tagliati alla scuola, alla ricerca e all'università negli ultimi 3 anni. Ogni traversina del TAV è un banco di scuola, una culla di asilo nido, un posto letto d'ospedale di ospizio, un insegnante in meno. E questi sono solo i preventivi, che di solito all'italiana raddoppiano o triplicano. Basta vedere quello che abbiamo speso per gli altri TAV già fatti, quelli utili per esempio, come la Torino-Milano, su cui nessuno si è opposto. Abbiamo speso 73 milioni di euro a chilometro, mentre la Francia ne spende 10 e la Spagna ne spende 9. Dicono, ma in Francia stanno scavando, a parte che non è vero, è tutto fermo anche lì, manca ancora il progetto definitivo fino a Lione, hanno fatto solo 3 cunicoli esplorativi, poi hanno tappato tutto in attesa di tempi migliori. Infatti i giornali francesi se ne strafottono di quello che succede dall'altra parte della montagna, perché non interessa a nessuno. E comunque in Francia quando scavano, scavano solo nella terra, mentre da noi quando scavano, scavano soprattutto nelle nostre tasche. E di solito il differenziale dei costi fra Italia ed Europa, lo spread del magna magna, ha un nome soltanto: tangenti. Basta aspettare. Il sospetto che dietro ci sia qualcosa di non detto aumenta quando si sentono parlare i difensori del TAV, perché prima c'erano i politici che ripetevano sempre: il TAV si deve fare perché si deve fare, punto. A Report, il governatore piemontese Roberto Cota, con il suo sguardo penetrante tipico della striglia lessa, ha risposto alle cifre dei Notav dicendo la seguente supercazzola: la TAV apre il Piemonte e tutto il sistema paese all'Europa. Prima di tutto è un'apertura psicologica, di prospettiva. Ecco, più che psicologica sembrerebbe psichiatrica, visto che il Piemonte è già collegato all'Europa e alla Francia, visto che il traforo del Fréjus l'hanno inaugurato nel 1871, all'insaputa di Cota naturalmente. E meno male che la Lega Nord difende la volontà popolare, il radicamento nel territorio, il popolo sovrano, il dio Po che difende i popoli contro chi impone scelte da Roma ladrone. Il popolo della Valsusa deve essere figlio di un Po minore, perché non viene preso in considerazione. Sempre a Report l'ex sottosegretario alle infrastrutture del governo Berlusconi, Giachino, disse un'altra supercazzola memorabile: il TAV consentirà di collegare le merci da Lisbona a Torino fino a Kiev, una super mega transiberiana, senza spiegare quali sarebbero queste merci che dovrebbero partire dal Portogallo e arrivare addirittura, marce naturalmente, in Ucraina. E perché mai dovrebbero fare una capatina a Torino? Forse per visitare la Sindone o il Museo Egizio. I politici non dicono mai niente di esatto, di preciso, dicono sempre una super cazzola dopo l'altra, però sono quasi tutti d'accordo. Quelli attualmente presenti in Parlamento sono tutti d'accordo sul TAV, governi di centrodestra, governi di centrosinistra. Uno dei più scatenati è il PD, il sindaco Fassino ha detto che i no TAV sono antistorici, un po' come chi 40 anni fa credeva nel comunismo sovietico. Chiamparino voleva addirittura espellere dal centro-sinistra tutti quelli che erano contro dal TAV, poi ha scoperto la sua vera vocazione, ora fa il banchiere. Il PD piemontese ha minacciato di togliere la tessera agli iscritti che manifestano contro il TAV, manco fossero dei pregiudicati o degli inquisiti, anzi no, se fossero inquisiti la tessera non gliel'avrebbero tolta, Penati ce l'ha ancora, è soltanto sospeso. Bersani l'ha ripetuto anche stasera, ha detto in fondo il TAV è solo un treno, non è solo un treno, è una linea ferroviaria che scava 57 km nella montagna e che guarda caso è appaltata a una cooperativa rossa, la CMC di Ravenna, molto nota alle cronache, soprattutto giudiziarie, per i suoi vecchi rapporti con Primo Greganti. Siamo passati da falce e martello a calce e martello. Ha scritto bene Adriano Soffri ieri su Repubblica, il partito trasversale pro TAV è il partito preso. Cioè quello che dice, ormai non si può più tornare indietro e non spiega mai perché, il partito dell'ormai. Il TAV è una nuova religione rivelata, fondata su un mistero sacro calato dall'alto, quindi indimostrabile ma indiscutibile, il dogma dell'immacolata costruzione. Infatti nessuno si confronta mai con i dati degli economisti della Voce.info, del Sole 24 Ore, che è un noto organo dei centri sociali, dei 360 professori universitari e professionisti che sono riuniti insieme a Luca Mercalli, Ivan Cicconi, i professori Marco Ponti e Sergio Ulgiati, che hanno lanciato quel famoso appello di cui si parlava prima a Monti. Gli hanno detto, caro Monti, hai avuto tanto coraggio nel respingere l'assalto di Olimpico di Roma 2020, possibile che non dimostri lo stesso coraggio ripensando a un'opera così superata e così costosa? Anche quelli sono tecnici, anche se non sono al governo, per essere tecnici non è necessario essere ministri, anzi ci sono tecnici che non sono ministri, la pensano diversamente dai ministri tecnici e magari sono molto più tecnici dei ministri tecnici. I 360 esperti citano per esempio uno studio di due ricercatori del Politecnico di Milano, Beria e Grimaldi, sulla grave sofferenza in cui versano tutte le linee di alta velocità in Italia. Poi c'è uno studio dell'Università di Oxford su 260 grandi infrastrutture trasportistiche in ben 20 nazioni. Si dimostra che tutte le previsioni sui costi vengono regolarmente sottostimate e tutte le previsioni sui benefici vengono regolarmente sovrastimate, tant'è che quell'analisi si intitola «La peggiore infrastruttura è sempre quella che viene costruita». Altri ricercatori svedesi e americani hanno dimostrato che le grandi infrastrutture ferroviarie non risparmiano energia, la consumano, quindi inquinano molto più dei TIR che si vorrebbero togliere dalla strada. Solo tutti i professori, mica anarco-insurrezionalisti, non insultano i poliziotti, non tirano pietre, non si arrampicano sui tralicci, non sporcano e non urlano, chiedono solo un tavolo, un tavolino per discutere pubblicamente come si fa tra tecnici, cioè con i dati e con le cifre e nient'altro. Ed è quello che chiedevano i NOTAV quando non c'era ombra di violenza nel movimento, solo che quando non c'era la violenza non li ascoltavano perché non erano violenti. E così qualcuno, sbagliando, ha pensato che per farsi notare ed ascoltare bisognasse diventare violenti e ha molto sbagliato a fare questo. Ora i tecnici di governo parlano come i politici. Il ministro Passera ha detto i lavori devono proseguire, punto e basta. Perché? Perché sì. Bell'argomento, un argomento tecnico, si è scritto anche lui al partito preso. In realtà proseguire i lavori è un verbo sbagliato perché i lavori non esistono, il cantiere è finto, i lavori dovrebbero semmai cominciare. Pochissimi operai, l'abbiamo visto, e moltissimi poliziotti. I poliziotti, anche loro, come i valligiani, sono le vere vittime di questa politica e di questi tecnici che non ci mettono mai la faccia, forse perché non ce l'hanno più, forse perché ormai sono al 4% di fiducia, come diceva Ainis. E nessuno nega che tra i manifestanti ci siano dei violenti, nessuno nega che anche tra le forze dell'ordine ci siano dei violenti, anche se lì è più difficile individuarli perché sono nascosti sotto i caschi, ma la gran parte fa soltanto il suo dovere. Come fa il suo dovere il procuratore Caselli, minacciato di morte e insultato con slogan orrendi, paragonato addirittura ai terroristi e mafiosi che ha combattuto per tutta la vita, solo perché ha fatto arrestare 25 attivisti accusati di violenze, tra l'altro quasi tutti venuti da fuori della Val di Susa, ma non è stato mica Caselli a decidere di militarizzare la valle, lui si è limitato a perseguire i reati, gli ordini li danno i politici, quelli del 4%, quelli che oggi si defilano e lasciano la patata bollente ai tecnici, forse perché sentono di non essere credibili o magari perché temono che qualcuno gli ricordi che magari il movimento operaio in Italia è nato proprio con i blocchi stradali e con le occupazioni delle terre. È credibile forse un ex banchiere come Passera che ora fa il ministro e che ha scelto come vice ministro delle infrastrutture un altro ex banchiere, amico suo e socio suo in Banca Intesa, che prima le infrastrutture le finanziava e ora le dovrebbe controllare e deliberare? Sono credibili i ministri politici e tecnici che hanno militarizzato una valle per proteggere un cantiere che non esisteva, che ordinano ai poliziotti di accogliere nelle stazioni i manifestanti pacifici in assetto antisommossa e di caricarne qualcuno o di inseguirli fino in cima agli alberi? Ecco, che bisogno c'era di far inseguire quel ragazzo sopra il traliccio? Possibile davvero in Italia chiunque si arrampichi su un traliccio viene regolarmente inseguito da un rocciatore dei carabinieri oppure un trattamento ad personam che si riserva soltanto ai notav? Lo dico perché un mese fa a Milano c'è stata una manifestazione secessionista della Lega. Alcuni milanesi hanno accolto i manifestanti srotolando la bandiera tricolore. La Digos gliel'ha fatta ritirare, il tricolore, non quella secessionista, per non provocare i leghisti. È il mondo alla rovescia, perché la bandiera nazionale è legalità e la secessione è illegalità. Però si può capire. Però si può capire la scelta della polizia, voleva evitare inutili tensioni, inutili scontri. Ecco, siamo sicuri che si stia cercando di evitare inutili tensioni, inutili scontri in Valle di Susa? Perché non si cerca di fare anche lì quello che si è cercato di fare a Milano tra i leghisti e i tricolori? Ma soprattutto perché i tecnici non fanno finalmente i tecnici e non rispondono su quel tavolino da tecnici alle obiezioni dei tecnici notav con degli argomenti tecnici pro tav, se li hanno? Se non lo fanno non sono dei tecnici, sono dei cialtroni, anche un po' provocatori, e nessuno a quel punto toglierà dalla testa a molta gente che questa non sia l'alta velocità ma l'alta voracità. E questo era un 14 minuti di travaglio, volevamo non mandarveli tutti, ma minuto dopo minuto c'era sempre qualcosa di interessante, anche se non tutto condivisibile. Assolutamente, proprio per quello, se no faceva troppa bella figura, e quindi che Caselli arresti la gente e faccia bene perché viene fuori dalla Val di Susa, che vuol dire travaglio, cioè non è che... Se non siete la Val di Susa non puoi andare in Val di Susa a solidarizzare, perché se no finiamo tutti quanti con le pezze. Allora a Val di Susa gli fanno la TAV, a Reggio Calabria ci fanno il ponte, no? E andiamo avanti così. Anche perché i violenti, lo dicevamo prima, sono quelli che arrivano in piazza vestiti di tutto punto, e se io ho di fronte qualcuno che ha un manganello, uno scudo e un casco, i parastinchi, sinceramente... E vedo che viene verso di me, mi dovrò difendere, che me faccio meno così, scusami tanto. E siccome diciamo che lo Stato, oltre a esprimere tutto il suo macismo attraverso questa militarizzazione della valle, diceva bene Travaglio, sono più, cioè ci sono i poliziotti, non ci sono i lavoratori del cantiere, nel cantiere che c'è in Val di Susa, vero è che, come dire, la dimostrazione passa per il fatto che una valle chiama in soccorso l'Italia, visto che lui parlava di tricolore, chiama in soccorso, come dire, una popolazione per dire dateci una mano, sono 21 anni che stiamo resistendo, e il ministro Caselli che cosa decide? Dice che 26 ragazzi vengono arrestati. Beh, al di là della violenza, come dire, sia legittima o non legittima, di quello che succede in piazza, forse, come dire, un segnale politico lo volevano mandare. Ne parlavamo la settimana scorsa, quando i manifestanti arrivano a Milano per prendere un treno e tornare a casa dopo una manifestazione pacifica, aperta tra l'altro dai sindaci e non dal popolo no global, se esiste ancora. Oddio, mi sono persa il microfono, se esiste ancora questo popolo no global, non lo so, comunque di un popolo che dà sostegno ad un altro popolo in lotta sicuramente, e vengono appunto manganellati alla stazione così senza motivo, o meglio forse un motivo ci sarà sicuramente. Il motivo lo sappiamo bene, no? Sempre i manganelli di qui sopra, no? Chiaro. E allora, siamo arrivati alle 23:23. è vero, siamo arrivati alle 22:33. Saluto e felicità. Niente, io provo a parlare, ma Bronco non me lo permette. Ora provo a rimetterlo al guinzaglio e andiamo avanti ancora per un'oretta scarsa qui su Salute e Felicità. E abbiamo ancora molte altre notizie da dare e continuare informazione su quella che è la Nottav, su quello che sarà l'8 marzo del martedì di Femministe e Lesbiche Autogestito e di quello che saranno gli appuntamenti di questa settimana, nonché di qualche altra cazzata sparsa nel web, a noi ci piace tanto, e nonché siamo quasi arrivate al momento delle stolle. Yeah, e infatti adesso ci ascoltiamo un brano e poi ci sarà la sigla del nostro simpatico oroscopo. E quindi invitiamo tutte e tutti coloro che sono in chat, e vi ringraziamo di essere in chat, di dire il proprio segno, verrà premiata la minoranza, ergo i primi segni lì, insomma, li andremo a segnare. Salutiamo Maxo. Di segno di sogno. Chi è ciao care, buonanotte, che fai? Ti ritira? Giudi Vaginadoron, dove vai? Giudi, salutiamo Maxot che è appena arrivato e poi tranquillizziamo Psilocibe e daremo anche il link che c'ha della, di una cosetta Notav che è successa anche a Londra e che ci faceva piacere chiaramente sponsorizzare. Allora è arrivato il momento di sentirci questo brano che sicuramente conoscerete, quindi non... Non è questo. Non è. We are the champion. Champion, anche quella... E non ve lo diciamo chi è, poi parte il nostro oroscopo. Buon ascolto a tutte e a tutte. Salute e felicità. Tra l'alero, tra l'allà. Il lavoro mangia ferocemente il tuo corpo. Hai le placche? hai la bronchite? Fatti una canna e sdraiati a letto. Positivi, rimedi naturali di salute e felicità. No, se hai le placche non te fuma la canna, però dagli un po', eh. Prendi un tocco di zenzero. Nemmeno le sigarette. Appunto. Vuoi curare la tua salute? È semplice, prenditi cura di te, non in maniera chimica. Ad esempio, cogli un tocco di zenzero sotto l'albero di casa tua, dove hai appena pisciato il cane. Fallo bollire per 20 minuti. A Roma ho zenzero. Dopodiché... Tutto cresce sugli alberi. Sotto gli alberi, infatti, è un tubero. Bollilo, sbuccialo, friggilo, cuocilo, lavalo, pisolo, eolo, rotolo, poi che manca? E poi sniffalo. Bianche nere. Ma che è sta roba? No, non volevo dire. Chiuderemo i vostri microfoni, a breve. Salute e felicità e rimedi naturali per la salute e la felicità. Prendi il tubero anche tu. E questo era per chi ha il raffreddore e la bronchite. Se invece ti vuoi far passare il raffreddore, prendi i tuoi calzini, prendi una testa d'aglio, sbucciala tutta, poi metti le tue dita nei tuoi occhi. Vedi che il tuo problema non sarà più il raffreddore. No, questa no, sarà la tua relazione con l'essere umano. Ecco, dopo che fai? Non mi sento più. Ah sì, eccola. E dopo che hai sbucciato l'acido e ti sei messo il dito negli occhi, metti... L'hai fatto. Non è tutto, tu l'hai fatto sentendo la tua tosse. No, c'è un'amichetta che me lo consiglia da quando la conosco. No, prendete quest'aglio. Prendete quest'aglio, spestatelo, bollitelo un pochetto, poi ve lo dovete strofinare sotto i talloni come se i vostri piedi fossero delle bruschette. Strofina, strofina, strofina. Ah no! Prima. Allora, pigliate l'aglio, lo capate, mettete le dita negli occhi, poi mettete i piedi a mollo con l'acqua bollente sino a che diventa frescolina. Pigliate l'aglio. Strusciate sotto i talloni come se fosse una bruschetta, vi mettete i calzini e vi mettete a dormire. La morte. E a questo punto il vostro problema sarà la vostra relazione con l'essere umano e o la vostra compagna o il vostro compagno. Sì. Col fatto che ti devi comprare la tua maglia di calzini, evidentemente. E le lenzuola nuove. È una casa nuova. E che prima di uscire devi fare 6 docce, se no al lavoro non ci puoi andare. Comunque, signore e signori, il momento delle stelle è arrivato. E arriva con questa The Best, ovvero quando sei single trovi parcheggio. Perugina, proprio poco tempo fa, e si sa che chi è single trova parcheggio. Chi è in coppia? Sono le stelle. Sono le stelle. Sono le stelle. Aia, pareggiato il Catania, questa rosicata una biscia. E allora, ci fanno notare in chat dal sito transizionedifase.org come questo sia anche un ottimo rimedio per rompere una relazione. Non ci avevano mai pensato all'aglio e ci ringraziano. La prossima volta ci, come dire, verrà utilizzato questo metodo. Allora, siamo... E non va bene anche per la forfora. Per la forfora c'è un altro manuale. Sì, ve lo diciamo fra poco, quello sulla forfora. Ce l'ho scritto proprio lì sul frigorifero. E allora arriviamo al momento delle stelle. Ma stavo pensando una cosa. Allora, per chi l'ha sentita precedentemente, questa rubrica veniva fatta dalla nostra Anna Rota. Ma Anna Rota so, 2 settimane che sta rota. Sta rota del raffreddore. Ecco. Cioè, tipo morta sempre lì dal letto. Perché non si spalma mai l'aglio sotto i talloni. E mo glielo diciamo. Ma oggi vedo il nostro, la nostra condizione di salute e penso, se Anna, se Anna Rota è stata colpita da Marte e Saturno contro, ma fosse mai che è la rubrica proprio dell'oroscopo di salute e felicità che porta iella? Chi è? Maledetta. Maledetta, fatta stare, qua no. Siamo... Visto che alla precedente richiesta nessuno aveva risposto, in chat chiedo chi è costei che canta questa canzone. Può vincere un piatto completo, un menù completo al prossimo Astra Kitchen. E Mimì ha vinto, e Vippia! Brava Mimì! Amore dice top, brava, brava Edith Piaf. Te volevo così. Memorò, non abiti in Francia. Ah. Sì. Chat. E allora dai col vino e iniziamo col Capricorno. Capricorna, Capricorno, Capricornum. L'Oxford English Dictionary aggiunge in media 2 nuove parole al giorno. Le prossime settimane, Capricorna, Capricorno, Capricornum, vorrei vederti espandere con altrettanto vigore la tua capacità di esprimerti. Ricordiamo che Mimì in chat ha vinto un menù completo alla prossima, a venerdì 30 marzo, quando Transizione di Fase farà la sua cena di autofinanziamento. E tu ci verrai a dare una mano in cucina. Grande Mimì! Dagli Mimì! È il momento di aggiornare il tuo vocabolario e le tue competenze comunicative, Capricorno, Capricorna, Capricornum. Ecco uno degli ultimi lemmi dello Head, che faresti bene ad aggiungere al tuo repertorio. Bounce Back Ability. Ovvero la capacità di riaversi da una batosta o di riprendere slancio dopo aver rallentato. E a me tocca l'oroscopo del leone. Il settimanale Hell Hey Weekly ha elogiato i ritmi ripetitivi del gruppo Barn Howl. In una recensione ha scritto che ascoltarli è come appoggiare l'orecchio allo stomaco del Dalai Lama e sentire il suono dei fluidi della sua reincarnazione che scorrono. Somiglia a quello che ti succederà la prossima settimana, Leone. Madonna. Scoprirai i segreti del funzionamento interno di una fonte benevola. Comprenderai quello che c'è dietro a una storia apparentemente semplice. Raccoglierai rivelazioni sulle correnti che scorrono sempre sotto la superficie della vita virtuosa. tutto questo sarà positivo, anche se è un po' complicato. Dai, prof! Che me l'hai arrivata su salute felicità, una dico gemelli, salute felicità. Questa è Notav, tra l'allero, questa Notav, tra l'allero. Vabbè, da tisana siamo passati al vino. E chi se intocca se ingrugna, e chi rimane senza bicchiere si affoga, e chi beve da solo si strozza. Ale, nel film spegniamo il suo microfono, per favore. Tu il mixer, scusa, abbassalo. Gemelli, nel film di denuncia contro il razzismo The Human Tornado. Ah, gemelli, questo oroscopo è bellissimo. Siete pazzi, siete folli, bello. Vabbè. Sa, prova. Nel film di denuncia contro il razzismo The Human Tornado, il protagonista Dolemite si vanta delle sue prodezze. Ho incatenato il tuono e ammanettato il fulmine, dice. Ho usato un terremoto per farmi un frullato. Non mi piace questa colonna sonora. Ah, cambiamo? Sì. E ritorni al frullato, scusami, allora. Nel film di denuncia contro il razzismo degli Human Tornado, il protagonista Dolemite si vanta delle sue prodezze. No, ma questo è super cattivo aggressive. Tu mi metti trasi. Cioè, c'avevo bisogno tipo di un. Vediamo. No, no, no. Ti metto questa, dai, è buona, è buona. A 45. A 45 porti, Nini. Va bene, ta mette. Grazie. Ma pure dispari a porti. Ah, bella. Yeah. Ho incatenato il tuono e ammanettato il fulmine. Ho usato un terremoto per farmi un frullato. Quando... Vai, ci piaci così? Ma poi non è andato in stand bike e Mac. No, stand bike, dai. Quando voglio un gelato, mangio una slavina. Ho preso a pugni un uragano e l'ho ridotto a un vorticello. Ah, un venticello. Meno male che c'è sta qualcuno che te controlla comunque. Sono tre giorni che leggo vorticello comunque. Ho ingoiato un iceberg senza congelarmi. È così che voglio sentirti parlare la prossima settimana, Giovanni. Date le configurazioni astrali, ne hai tutto il di, rito, o. E poi credo proprio che ti farebbe bene. Io rimango a casa la prossima settimana. Allora, perché la canzone ci piace, andiamo avanti con il cancro, perché sono le 22:51 e qua salute e felicità, non ci fermiamo. Ma si è possessata di lei chi? Cecchetto. Un violento. No, è colpa degli placchi che ho da 2 mesi, è tutta colpa loro. Secondo l'artista e astrologo Antero Alli, che chi ha il segno del cancro nel tema Natale tende a lamentarsi molto. Nel suo tema, dice Alli, il cancro occupa la nona casa, perciò si lamenta delle credenze, dell'ignoranza, dei dogmi statii che spingono le persone a non basarsi sull'esperienza personale come fonte di conoscenza. Hai capito che ho detto? Annuncio, bravo. Hai anche il permesso cosmico di protestare a gran voce per le ingiustizie commesse da persone meschine, i pensieri miopi che non tengono conto del quadro generale e gli avidi interessi personali che disdegnano il futuro. Oh, ma non sei autorizzato a lamentarti dei bambini che piangono, degli impiegati maleducati e del traffico. Un po' criptico Rob sul cancro, lui è cancro, mazza perciò così antipatico, mamma mia, scusa, io sono di parte, sono una gemelli che viene bastonata ripetutamente da... E in chat non è arrivato niente se non Sagittario. Che è arrivato? Ah, oh, era arrivato anche Capricorno. Già fatto, era il primo segno. Sì, sì, sì, no, dico quelli che abbiamo già fatto tutti quanti. Sì. Quindi ne manca uno. Sagittario. I pesciolini, è vero, è vero. Il conduttore è pesciolino. Vabbè, io leggo Sagittario e tu leggi il pesciolino, va bene? Sagittario, ci sono momenti nella vita... Ti puoi scegliere la colonna sonora comunque, quello vuoi. Sì, no, io sono molto democratica, fai tu. Faccio io? Fai vabbè, tu. Allora metto quella che avevo messo prima. Va bene, si può fare, dai. Ci sono momenti nella vita in cui esploriamo molto il mondo esterno e altri in cui le nostre sonde sono rivolte soprattutto verso l'interno. Attualmente, caro Sagittario, sei più propenso al secondo tipo di ricerca. Ecco la strada che potresti seguire. Passa in rassegna tutte le tue voci interiori, considerando sia quello che dicono, sia il tono con cui lo dicono. Qualcuna potrebbe essere più loquace, qualcun altro più timida, qualcuna squillante e qualcuna più sottilmente seducente. Alcune, no, accoglile tutte e mettile al centro della tua attenzione. Chiedili di farsi avanti e di rivelarti quali sono le loro intenzioni. E qualcuno chiedeva che deve fare con la sonda deve essere attenta ad ascoltare quello che gli dice il mondo interno e ognuno lo interpreta un po' come te pare, Gugi. Ma stavamo ascoltando in sottofondo i Cranberries con Just My Imagination e compiti per tutti di questo oroscopo è o sono? Sono però è... È una cosa. La tua immaginazione è la cosa più preziosa che hai. Vi segnate. Pesciolino, questo è quello che ti dedico. Abbassa la musica. Io levo il microfono comunque. Pesci, dovresti imitare il gallo. Pesci, e dare regolarmente la sveglia a tutti. Ah, l'hai capito. Dovresti convincere gli altri a scuotersi dal loro torpore e a uscire dal loro intontimento. Ci stiamo a provare, comunque non ve lo volevo dire, ma questa cosa di play. È il touchscreen. C'è qualche secondo di pausa. Aspetta. È un po' disgraziato. C'è qualche secondo di Fausta, vai. Stava a cascare vino. Attenzione, volava un bicchiere di vino. Bomba! Qual è la tua versione personale del Kikiriki Pesci? Ti consiglio, ti sconsiglio, pesci. Qualcosa di generico come aprite gli occhi o smettere di cercare scuse. Trova un'esclamazione e una frase che caturi. trova una esclamazione, sì, o una frase che catturi l'attenzione che nessuna persona intelligente potrà ignorare. No, no, no, no, non si fa così. Salute, eh? E felicità. Ma... tra-la-lero, tra-la-la. Ne rileggi l'ultima, per favore. Trova una esclamazione o una frase che catturi l'attenzione e che nessuna persona intelligente potrà notare. Ignorare. Che ho detto io? Oh, mamma Saura. Per esempio, gettiamoci nel vortice e mescoliamo le nostre trans. Vabbè, 22:58, io direi stacchetto musicale, perché siamo quasi alla fine di questa trasmissione, di questa fantastica domenica bronchiata. E dopo la musica torneremo in diretta per raccontarvi una piccola barzelletta sul genere. Una piccola barzelletta sui generis. O una piccola barzelletta di genere. Non saprei. Posso fare una... anzi, posso dare un suggerimento al pesciolino? Sì. Potrebbe utilizzare la frase "passo io che passi tu, mi fermo io che..." Secondo me convince. Sì, sì. Non so, se tu vai al semaforo e fai "signora, vorrei proporle di passo io che passi tu, mi fer-" no, "che ti fermi tu, mi fermo io, mi sono scordata", va bene. E arriva il sub. "Tu che passo io, mi fermo io che passi tu". Una sorta di... per 14 chilometri. Sì. Ma ora, come diceva la mia Coco... sul cellulare. Come la mia, diceva la mia Coco, un po' di musica, perché questa radio è anche musica e abbiamo già chiacchierato tanto. Vi lasciamo con un pezzo che è Tori Amos, Cornflake Girl. Never was a cornflake girl, thought that was a good solution, hanging with the raisin girls. She's gone to the other side, giving us a yo-yo. Things are getting kind of gross, and I go at sleepy time. This is not really, this is not really happening. Out the watch would just peel out.

23:09, questa era Alanis Morissette con la sua Citizen of Planet of the Planet. Proprio perché la corrispondenza da Londra ci diceva, no? Ci diceva tutta la gente del mondo che comunque si prova a attivare per la Notav e non solo. E comunque vige la regola per cui se lo sapevo non avrei venuto. Certamente. Che mi pare una grossa pillola di saggezza. Vedo volare auricolari. E allora io bene, sì. Vi volevo leggere degli estratti di questo articolo che ho trovato su questo sito Radio Vaticana. E comunque un pochettino se la merita anche lui, eh? Se la merita pure lui, no ma... Attenzione! È un'altra, eh? Doppietta questa sera. È una doppietta, però prima di arrivare alla vera citazione fenomenale di quest'articolo vi voglio leggere qualche passaggio prima, altrimenti non si sarebbe comprensuto. Detto anche. Allora, l'articolo intitola La teoria del gender, virgolettato. Scusi. La teoria del gender. L'obiettivo è negare la differenza tra maschi e femmine. Ma della teoria o dell'articolo? L'obiettivo. Non lo so. Ora, è vero che per parlare bene di quest'articolo bisognerebbe avere un par d'ore a disposizione per capire identità di genere, sasso, orientamento sessuale, tutta una serie di nomenclature utilizzate in questo ambito per comprendere realmente la cagata che sta scritta. Ma non vi attaccheremo questa pippa bestiale, ma e altre sicuramente, due ore non ce le abbiamo. Io muoio fra poca. Ma sicuramente ve l'attaccheremo, anzi, possiamo cogliere l'attimo per dire che siamo a marzo 2012 e entro questo anno 2012 accadrà un evento straordinario a Roma. Sì? Sì, accadrà. I Maya? Né i Maya né Saia, ma solo persone con l'aglio sotto i talloni. No, accadrà un evento culturale, sociale, antropologico. Ma è riferita alla conduttrice, vero questa? Aglio per tutte! No, ci sarà un evento molto importante, di una notevole importanza, che accadrà in quel di Roma in questo anno solare, che sarà un... Scusate, non gliela posso fare. Che sarà un festival, diciamo, un festival, se si può dire, sulla tematica lesbo, gay, bisex, trans, queer, intersex e quant'altro. Di un titolo di un festival che voi già avete sentito negli scorsi anni, che è Io sono, io scorro. Ma non vi vogliamo dare né preannunciazioni, né dirvi qualcosa che non vi possiamo dire, ma semplicemente che ci sarà. E sarà un'ottima occasione per Salute e Felicità di parlarvi di una serie di cose. Assolutamente. Un po' come Apre a Pomezia. Apre a Pomezia, fra 30 Gigi. E tutto questo per dire che non si può parlare della teoria del gender, che poi la teoria del gender, tra virgolette, tipo la teoria del dello stoccafisso in pochi minuti, ma praticamente c'è un'intervista a un'autrice di un libro, Genere, chi vuole negare la differenza maschio-femmina, l'alleanza tra femminismo e Chiesa Cattolica. Ma risaputa questa alleanza? Cioè, sono sempre andati d'accordo. Perché storica, oserei dire. Praticamente, siccome il revisionismo storico a noi non ci piace, no? E praticamente a un certo punto si vuole dire che la teoria del gender, che per chi ha già orecchiato questa parola auspica, diciamo, al queer, ma che... Alla disfatta del genere. Qua non si parla né di disfatta né di decostruzione del genere, ma del mischio. Cioè, se superiamo i generi, superiamo le differenze. Certo. Ok. E ci sono varie domande finché a un certo punto si arriva... È sempre su Radio Vaticana, sì. Vero? Dire che la femminilità e la mascolinità sono costruzioni sociali indotte equivale a relativizzare una differenza oggettiva tra maschi e femmine. Ecco, a natura. Quindi a dire anche che la natura, in un certo senso, è irrilevante. Allora, con calma, riproviamoci. Dire che la femminilità e la mascolinità sono costruzioni sociali indotte. Allora, innanzitutto, femminilità e mascolinità sono costruzioni sociali indotte? Ci poniamo questa domanda e ci rispondiamo sì, senza attaccare un pippone stoico gigantesco, ma sì, perché nasci bimba, bella, fiocchetto, rosa, trick e track la gonna, regaliamo il ferro da stiro quando ha un anno, a 2 anni gli regaliamo il fornetto elettrico, a 3 anni la Barbie, a 4 anni gli regaliamo Ken, perché dopo gli abbiamo fatto capire che sarà una bellissima femminuccia, gli facciamo capire che si sposerà con un bel maschietto. Quindi sì, sono costruzioni sociali indotte. Ma se noi dicessimo ciò, relativizzeremo quella differenza oggettiva tra maschi e femmine. È tautologico, è biologica, non è pure tautologica, è un po' paradossale, un po'. Com'è il ghiaccio freddo? È un ossimoro. Mi pare anche un po' un ossimoro. D'altronde lo diceva Giovanardi, ci sono degli organi per entrare e degli organi per uscire. Ecco. Accogliere, era. Dipende che vuoi accogliere. Quindi. Cosa è successo in quei paesi dove la teoria del gender ha preso piede? Siete pronti? Facciamo l'esempio della Spagna, il caso a noi più vicino. Oggi nel codice civile spagnolo non si parla più di madri e di padri, si parla di genitore A e genitore B. Gravissimo, povero bambino. Genitore A e genitore B. Noi, psicologicamente parlando, parliamo di caregiver, una parola che hanno introdotto un po' di anni fa, che ci leva le madonne dal dire la mamma, il papà, lui l'allevata, lei l'allevata. No, colui o colei che si prende cura del nascituro. Superando cosa? La dualità dell'idea di che c'è appunto un genitore biologico che sarà poi anche il genitore affettivo, e soprattutto e la anche tagliamo con l'accetta perché sono le 11:20. C'è ragione. Vabbè, quindi genitore A, genitore B, regalatemi della borocillina e dell'aglio. Quindi questa è già una prima applicazione reale della teoria che è sotto gli occhi di tutti, perché si sa che la teoria gender è sotto gli occhi di tutti. Non i come dire, vabbè, andiamo avanti, sennò non ci arriviamo alla fine. Oggi in Australia, nel passaporto, pensate che è successo, una cosa gravissima. Accanto alle caselle che indicano maschio e femmina, esiste una terza casella. Oh mio Dio, che cosa c'è sotto la gonna? Una casella di neutro. O dentro i pantaloni. Non lo so, spero il portafoglio. E questa novità è intervenuta molto recentemente, dopo che alcuni transessuali, vabbè, andiamo avanti, hanno chiesto la possibilità di non essere etichettati come maschi o come femmine. Il problema è che questa ideologia è penetrata, non mi piace sto verbo, il problema è che questa ideologia è penetrata già a livello di Unione Europea. Pensate, dall'Australia, i canguri che hanno fatto il genere neutro e che si sono accorti che una persona può anche non essere solo maschio o femmina e che il genere è transitabile da una parte all'altra e che la natura ci insegna e ci fa vedere e ci dimostra palesemente con milioni e milioni di casi che non esiste solo il maschietto e la femminuccia, i canguri con questa idea un po' strana, un po' assurda del stravagante, eccentrica direi, è andato dall'Unione Europea, ha tirato fuori dal suo marsupio, oltre allo specchio di Venere, a quell'altro coso del simbolo del genere maschile, ha detto, oh, quanti siamo nel mondo? Un botto di gente. 8 miliardi. In 8 miliardi di questi 8 miliardi di persone non sono tutti maschi e femmine. Si può essere anche altro. Oh, e allora l'Unione Europea si è riorganizzata. Il canguro si è trasformato in un sottomarino e non si è presentato ufficialmente. C'è scritto proprio questo, cioè io sto fuori, sto delirando, ma sto seguendo il delirio di un altro. Sono ambientale. La questione ambientale. Se noi andiamo a vedere, è già penetrata, che se ce l'ha, che c'è una concezione un po' fallocentrica dell'informazione, è già penetrata fino alla radice, perché la parola sesso è già stata sostituita dalla parola genere. Questa sostituzione linguistica non potrà non avere degli effetti nel lungo periodo. E io farei passare una musica palla da camera. Da, da, da, da. E allora l'Unione Europea propone un maschio, due femmine, tre monti. Grande prof. Siamo arrivati alle 23:23 a Bush the Cool. Noi siamo stanchi, imbronchiati, leggermente brilli e con tanto sonno. Ciao Giorgio, you're welcome. E salute e felicità. Sta aggiungendoci al termine. Ma rimanete connessi i prossimi 10 minuti perché abbiamo ancora un par di cose da dire. dividere, di mettere delle divisioni, di mettere sul piatto interessi apparentemente conflittuali tra precari e garantiti, tra giovani e meno giovani, tra lavoratori autonomi e dipendenti pubblici. In realtà io credo che questa riforma del lavoro punta molto ad unificare queste condizioni lavorative. Il vero problema è che non le unifica dando dei diritti e delle garanzie a tutti, ma le unifica rendendo tutti precari, rendendo tutti ricattabili. E sulla questione del ricatto, su cui prima interveniva anche Maurizio Landini, vorrei tornare, perché il ricatto vuol dire tante cose. Vuol dire innanzitutto non poter tornare dentro una fabbrica se si possiede la tessera della FIOM in tasca, ma vuol dire anche accettare lavori a 400 euro al mese, vuol dire anche finire l'università e ritrovarsi di fronte al mondo del lavoro che è un deserto di opportunità e di possibilità per i giovani. Ricatto vuol dire... questo, io una cosa la voglio dire: basta insulti, basta umiliazioni. Questo governo, come quello precedente, non ha fatto altro che umiliare pubblicamente i giovani, chiamandoli sfigati, fannulloni, bamboccioni. Questa è una cosa indegna. E un'altra cosa, a due giornate di mobilitazione che hanno completamente bloccato il porto, le strade, i treni, le autostrade della città e tutti i flussi produttivi che per quella città passavano. Allora io penso una cosa, userò un'espressione un po' vetero, però penso che mi capirete. Non si può pensare di non mettersi insieme, di non bloccare il paese se si vuol fare male ai padroni. E per padroni intendo i padroni di fabbrica, intendo i padroni in Parlamento, intendo i padroni nelle banche e negli istituti finanziari. Bisogna fargli male, e per fargli male penso che bisogna puntare a bloccare questo paese e a puntare i piedi se le nostre rivendicazioni non verranno accolte. È per questo che penso al 9 marzo come un punto di partenza per mettere insieme non soltanto contenuti diversi e componenti diverse del mondo del lavoro, ma anche forme di lotta diverse. E quindi sciopero dei metalmeccanici, sì, ma anche occupazione di fabbriche, ma anche occupazione di università, ma anche occupazione di strade e di autostrade. Se non proviamo, se non stiamo all'altezza di questa sfida, non penso che possiamo sperare di vincere. E penso che il 9 marzo deve essere soltanto un punto di partenza, non può essere un punto di arrivo, e dobbiamo pensare a costruire una forza sociale che sia in grado non solo di vincere questa o quella battaglia, ma di cambiare radicalmente il sistema produttivo e la società in cui viviamo. Grazie. Quello che abbiamo ascoltato era l'intervento di una delegata precaria della FIOM all'assemblea per il 9 marzo, e dopo questo intervento, che ci scusiamo, abbiamo un po' passato così, ma erano 6 minuti, forse un po' troppo lunghi per questo orario. Se volete sentirlo tutto andate su fiom.cgl.it e lo trovate. Fiom.it, chiaramente. Manifestazione nazionale 9 marzo, ore 9:30 a Piazza San Giovanni. Sciopero generale dei metalmeccanici e delle metalmeccaniche. Riconquistare il contratto a partire da Fiat. Questo dice il primo punto dello quello che chiamano sciopero. Da Piazza Repubblica a Piazza San Giovanni il 9 marzo alle 9:30. Estendere l'occupazione, i diritti e l'articolo 18. E basta! Sempre con questo articolo 18. Cioè, io sarò federa come lei. Bisogna unirsi, bloccare il paese, difendere dall'articolo 18, garantire il reddito e la cittadinanza a tutte e tutti. Ebbene sì, qua c'è un altro intervento che vuole fare l'amica tua, qui presente. No, semplicemente, quale miglior buon modo di concludere questa sesta puntata di Salute e Felicità se non, come dire, uniamo le lotte e passiamo dalla resistenza all'attivenza. Nel senso... Oddio mio, dove di sta cosa? Mo ci ha rovinato il podcast. No, riprovaci. No, ma ha fomentato sta tipa, cioè ma veramente fomentato. Sto molto roar. Ma a transizione di fase farà una diretta dallo sciopero? Noi i cortei della CGIL non li mandiamo in onda. Anche se della FIOM. Il giorno in cui Landini deciderà di uscire dalla CGIL, noi saremo sempre al loro fianco. E ci dispiace, ma da accogli. Com'era prima Travaglio? Anche perché il sito è fiom.nl.it, noi non vendiamo roba. No, perché, come dire, penso che possa sempre sembrare un po' difficile da chi ascolta da fuori non capire perché non aderire a uno sciopero della CGIL o non essere propensi e positivi verso chi del PD fa dichiarazioni, ma prima veniva detta una di queste cose veramente, come dire, pazzesche, ovvero che PD Piemonte ha dichiarato chi attivista o vuole fare campagna per la Nottav o va a manifestare con i Nottav, ritireremo le tessere. Ecco, cioè. Ma vabbè. Vabbè, pensa. Poi ti devi ancora chiedere perché oggi in Italia il PD non può essere meno più considerato. Meno gente del PD in giro, meno male. Cioè, forse famo qualcosa in questo paese se chi ha la faccia mascherata come si dimostra per quello che è. Mamma mia, che paura, che paura. Vabbè, ma Salute e Felicità questa sera vuole finire positivo e felice, salutare. Assolutamente sì, salutare e abbracciare Giorgio che ha anche indovinato la canzone che era Singer dei Sia, che passavamo in sottofondo all'intervento della hai sbagliato. Giorgio ha indovinato, era la no, la canzone si chiama Lentil, quella che era in sottofondo, sì, ed è di Sia. Perdonatemi, è un... Oh mamma Saura, c'hai proprio ragione, scusatemi, Singer e cantante. No, ok, siamo stanchi, va bene, diciamo questa cosa per finita. Siamo stanchi, scusate l'errore. Sì, Orien, l'attivenza è il substrato postmoderno della resistenza. Pensate, ci hanno fatto una facoltà di fisica apposta sull'attivenza. Che va contro il processo di gravità. È arrivato il momento di chiudere perché noi non gli famo più. C'erano tante altre cose che vi avremmo voluto dire come al solito. C'è la nostra ricetta della settimana che non abbiamo fatto in tempo a dire, ma vi invitiamo ad andare sul blog artfoodandothergaythings.wordpress.com e a leggervi scusate, la ricetta della settimana, della quale se ci riuscissi magari volentieri vi darei il titolo, ma purtroppo mo so perso. Se proprio volete ricettare, vi ricordiamo i fantastici consigli naturali di Salute e Felicità. Oh mamma Saura, un'altra volta con l'aio stavo. Il nome della ricetta su Art Food and Other Gay Things è il bulimico attivista, ovvero orecchiette, guanciale e menta. Guanciale di soia se siete vegetariani, sempre bene. Grazie Frodo. Comunque abbiamo anche un'altra definizione di attivenza, però, poiché esso è un sostantivo molto diffuso nel mondo, in inglese si chiama attivation. Ah certo, sì. In spagnolo è attivenzación. Ovvero è l'evoluzione Pokémon della resistenza. Oddio mio. Prof! Ci siamo, ci siamo. Ciao raga. Sì, siamo per chiudere anche perché abbiamo perso ufficialmente la seconda Coco che continua a tossire, è diventata violacea a furia di tossire. Più che evoluzione Pokémon, io direi che è il superare il Super Saiyan. Che bello. E per chi ha 10 anni mi può capire. Ma pure per chi ce n'ha 30. Voglio il crestone biondo. Che passiamo? Vabbè, salutiamo, ragazzi. Sì, a parte. Ciao. Ciao. Eh? No, non questa versione, però dai, non l'abbiamo già passata. In realtà, questa è chiaro. Però questa canzone, questa puntata era dedicata chiaramente alle donne. C'è l'8 marzo, c'è il 9 marzo, c'è il 10 marzo e c'è l'11 marzo, come vi abbiamo detto. Di seguito sono l'8 marzo, festa delle donne, e quindi le 24 ore del martedì femminista e lesbica autogestito a Radio Onda Rossa. Il 9 marzo c'è lo sciopero generale della FIOM alle 9:30 a Piazza della Repubblica. Il 10 marzo c'è alla sede della CGIL alle ore 15 una simpatica assemblea pubblica, devastazione e saccheggio, per costruire il Pride di Roma. Quindi se non c'avete cazzo da fare sabato praticamente, volete dire ai serci, non c'è sta niente da Anotab, venite a CGIL dalle ore 15 e l'11 invece ci sarà Salute e Felicità, una rubrica tendenzialmente queer che va in onda tutte le domeniche dalle 21 alle 23:30 abbondanti. Aggiungiamo sempre su transizionedifase.org. Chi lo annuncia l'ultimo brano della puntata? Dai, l'annuncio io. Gianna Nannini, Carmen Consoli, in una canzone che abbiamo già ascoltato, ecco, nella versione della bellissima voce di Janis Joplin. Però questa volta abbiamo appunto la Nannini e la Consoli che duettano cantando Peace of My Heart. Scusate, e noi salutiamo Bodina, con la quale ci dovevamo collegare su Skype, doveva introdurci anche lei un po' del martedì femminista e lesbica autogestito. In realtà se la siamo persa tra i contatti di Skype e pensavamo che si era sconnessa, in realtà era lì e ci ascoltava. Scusaci Bodina, ti chiameremo domenica 11 per farci un resoconto di com'è andata la 24 ore. E mentre sta finendo questa canzone ci scusiamo per l'audio così scarso, ma purtroppo i mezzi di diffusione anche della musica che vengono dal web non sono così precisi. Vedevamo uno striscione apparso durante il derby. Sezione Curva Sud della Roma, poliziotti e giornalisti, siete voi i terroristi? No TAB. 23:40, basta, andiamo a casa, a tricche e tracche. E guido io stasera. Oddio, mi arriviamo a casa a 1:15. E allora, un grande saluto a tutti. Da questione ambientale. 14 chilometri, mettili un po' a destra. Da questione ambientale. A me verrebbe da dire, è una questione di qualità, più che ambientale. E passi tu che passo io. E poi mi fermo. E la notte tra la lere tra la. Va bene, su questa cosa vi volevamo lasciare tanto. Con una cantantessa. Passo io, mi fermo io che passi tu. Una sorta di... Per 14 chilometri. La notte non è da sola, insieme facciamo un casino. Cioè io vorrei dire una cosa, al ministro, al signore di prima, Mauro Virano. Mario Virano, scusate, non ci vedo Mario più, Virano, che io per fare 350 chilometri impiego 12 ore. Io per fare 25. Da questione ambientale. La questione ambientale, la sì. Questione Annunziata, abbiamo capito questa questione ambientale, stai karma. Eh sì, io sono nata nel sud, il mio cocò è nato più a sud di me, è una questione ambientale, c'è ragione. Da questione ambientale. Questione ambientale. E pensate che sono nata a Ostia, 28 chilometri, 2 ore. 23:42, evidentemente il vino è arrivato dove doveva arrivare. 3 ore. No. E 28 chilometri. Vi lasciamo con una cantante. È Roma da sola. Non l'abbiamo messa. La fossa dei leoni. Niente, il conduttore mi snobba e l'altra è impazzita. Mi fermo io che passi tu. Una sorta di... Fermati tu che passo io. Mi fermo io che passi tu. Una sorta di... Per 14 chilometri. Sì. Per 14 chilometri, signore e signori. Io direi che domani possiamo bloccare la 24 per 14 chilometri a pizzare una paletta e dire fermo tu che passo io, devo fare la TAV, se non si sa l'ambiente che... Tra la lera, tra la le... Vabbè, evidentemente io... Da questione ambientale. È una questione ambientale. È una questione ambientale. No, io volevo solo ringraziare Scarpe e Bodina e che ci propongono qui una... Vi ha incastrati, ci siamo incastrati in 5, ci piace. Lo facciamo in pace, la notte ci piace. Da questione ambientale. Basta, stanotte mi sogno la questione ambientale in se può fa. Tracy Chapman, proprio. Buonanotte! The picture perfect life inside. I'm your mind. Dreaming only of the days ahead. Wanted and wished for more than now. For the days behind, you waste your time. Picture makes a promise, the flesh lets it be broken. The picture makes a promise, the flesh lets it be broken. You can never think. You can't even stop yourself before the words have been spoken. You've already said you would give everything and something for nothing. Everybody thinks you're joking. The picture makes a promise, the flesh lets it be broken. Picture makes a promise, the flesh lets it be broken. you wanna be the one made over, be your own for and after. And the supermarket's beauty in a bottle queen will one day grace a checkout counter, magazine front cover. Though the fine print reads, the picture makes a promise, the flesh lets it be broken. The picture makes a promise, the flesh lets it be broken. Lets it be broken. It be broken, broken. Let's it be broken. Let's it be broken. Broken, broken. Your life is never what you want, not even halfway normal, just tarnished and soiled when in your reach. A framed and frozen moment, so far from perfection, not truth or transcendence will set you free. Still you don't believe. Picture makes a promise, the flesh lets it be broken. The picture makes a promise, the flesh lets it be broken.